Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel nuovo romanzo di Andrea Vitali, ambientato negli anni 30, si intrecciano alcune vicende misteriose che fanno capo alla caserma dei carabinieri di Bellano. Una di queste riguarda la scomparsa di un'anziana ospite della casa di riposo di Gravedona. E i primi indizi vengono raccolti dal sagrestano, mentre origlia la confessione di una parrocchiana. Si godeva il suo bel paese, Don Carlo Gheratti. Adesso ha quasi 80 anni. Il dolce paese che aveva sempre avuto nel cuore e che il destino gli aveva negato, a cominciare dal momento in cui era entrato nel seminario per chierici poveri di Monza. Povertà, mica aveva vergogna di quella parola. Per povertà, nient'altro, il giovane Carlo Gheratti, quarto di 8 figli, aveva imboccato quella via. Di vocazione all'inizio c'era solo la parola, un concetto astratto. Era maturata però, e per fortuna, via via studiando e ascoltando. Una vocazione tranquilla e modesta, seguendo la quale Don Carlo aveva concepito la certezza che un premio finale ci sarebbe stato, e su questa terra, tornare al paese e goderselo fino alla fine dei suoi giorni. Per anni, tutte le sere, il desiderio che aveva sussurrato tra sé dopo le preghiere era sempre stato quello. E finalmente, dopo aver retto per 15 anni la parrocchia di Gravedona, una delle tre antiche pievi dell'Ario, acquisendo il diritto al titolo di arciprete, il sogno si era realizzato. Così adesso si godeva il suo paese. Come lo facesse erano affari suoi, piacere suo personale. Seguiva l'istinto. Starsene per delle mezze mattine affacciato alla finestra dell'appartamento che gli era stato assegnato in piazza San Giorgio, a guardare i piccioni volare, per esempio, o il cielo, con un mezzo sorriso che a chi lo vedeva sembrava stupido solo perché nella bocca del sacerdote mancava qualche dente. Ascoltare a occhi chiusi le voci che provenivano dall'oratorio, infantili rondini che purtroppo non sapevano ciò che stavano consumando a calci contro un pallone. Anche, da quando era cominciata l'estate, passare parte del pomeriggio in chiesa, chiuso nel confessionale. «Si sta belli freschi», aveva detto a mo' di giustificazione al prevosto titolare e al coadiutore. «Ubbie di un vecchio prete a riposo», avevano pensato i due. «Ma un sacerdote può davvero essere a riposo?» «No». Così perlomeno aveva pensato Cicilla Salò, detta Gnagnolina, una sdrenata senza età nota a coloro che si affidavano alle sue cure per sconfiggere vermi, sciatiche, balbuzie ed emorroidi, che passava le domeniche estive seduta sul primo gradino della scalinata che portava all'orrido vendendo cartoline. Gnagnoline, come le chiamava lei, da cui appunto il soprannome, stinte visioni panoramiche del paese e del suo lago. Era stata proprio lei la prima a entrare in chiesa una domenica pomeriggio per chiedere a Don Carlo se poteva confessarla. E il sacerdote s'era prestato ben volentieri. Così la gnagnolina aveva ritenuto che fosse suo preciso dovere, oltre che offrire miagolando la propria merce, spargere la voce intorno a quella opportunità. Pure al sagrestano Ulderico Frattazzi, detto Bigè, non era sfuggito il singolare comportamento di Don Carlo. Scapolo e curioso come una scimmia, il Frattazzi l'aveva spesso pedinato, entrando però in chiesa dalla sagrestia e passando per il coro anziché dal portone principale. Quando aveva capito che il più delle volte l'arciprete nel confessionale s'addormentava o al massimo passava un'oretta bisbigliando preghiere, era stato sul punto di lasciarlo perdere. Ma proprio due o tre domeniche prima aveva scoperto che qualcuno ne approfittava per confessarsi e il fatto aveva acceso la sua curiosità. Cosa c'era di meglio per passare un po' di tempo se non ascoltare i peccati altrui? Sino ad allora, però, più che peccati da un pater a vera gloria, al massimo come penitenza, confessati da vecchie zifolanti, non aveva raccolto. Nonostante ciò, pure quella domenica il Bigè, che altrimenti non avrebbe saputo come far trascorrere il tempo, s'era appostato. Aveva addirittura anticipato Don Carlo. Ormai sapeva che il confessionale preferito dell'arciprete era il primo dei tre che stavano sotto la navata di destra. Quando udì cigolare il portone, segno che qualcun altro stava entrando, il Bigè si mise in allerta. Sperava, con la fantasia aveva rincorso più volte i peccati di una giovane sposa. Invece, quando il portone tornò a chiudersi, il silenzio della chiesa si riempì di un ansimare. Di vecchia o vecchio, poco importava, sarebbero comunque stati peccati senza sale. La donna stette ferma quel tanto che le serviva per riprendere fiato. Aspettava che gli occhi si adattassero all'ombra. Dopodiché chiamò. «Signor arciprete?» La voce rimbombò sotto la volta del soffitto. «Vecchia», diagnosticò il Biget. Però il Biget non era mica scemo. Pochi, pochissimi chiamavano Don Carlo con quel titolo. Per lo più reverendo o semplicemente Don Carlo. Il sacerdote scostò un istante la tendina del confessionale, giusto per segnalare alla donna una sagoma al lato del fonte battesimale, dove fosse. La donna riprese a camminare. Strascicava i piedi. Sotto il suo peso il legno dell'inginocchiatoio scricchiolò. Un profumo di lavanda invase il confessionale. «Don Carlo!» salutò. «Dite», rispose il sacerdote. «Sono Maria Domenici». «Maria?» Il Biget incassò la testa tra le spalle, stupefatto. Il tono del sacerdote infatti era cambiato all'improvviso. Persino la voce sembrava quella di un altro. «Maria», mormorò il Biget. «E come diavolo aveva detto di chiamarsi?» Lo scaccino si sentiva alle orecchie rosso fuoco, ma i due non parlavano più. Cos'erano morti? C'era un silenzio tale che si sentivano distintamente le grida dell'oratorio, il fracasso dei passeri, il sordo rumore del caldo. «Cosa ti porta qui?» domandò infine Don Carlo. «Meno male». Il Biget sospese addirittura il respiro. «Appunto», pensò, «cosa la portava lì?» «Devo chiedervi una cosa», sussurrò la donna. «Dimmi pure», rispose Don Carlo, in perfetta sintonia con il pensiero del Biget. Dopo quella donna, quella Maria, come diavolo si chiama, nessuno era più entrato in chiesa per confessarsi. Ma nemmeno quella poteva definirsi una confessione vera e propria. Il Biget aveva capito poco, quasi un piffero, tra la vecchia che ansimava e l'arciprete che sembrava parlasse solo con il pensiero. Aveva avuto l'impressione... Sì, ma come si potevano tradurre in parole certe sensazioni? In sostanza, non aveva in mano niente e si sentiva come se fosse al centro di una ragnatela. Abbandonato il confessionale alla chetichella, camminando sulle punte, subito dopo la partenza della vecchia, aveva chiamato a raccolta i pensieri, sottovoce, cercando di metterli in fila per chiarirsi le idee. In casa s'era allungato sul suo letto di scapolo che emanava odor di sudore e di muffa e aveva fissato lo sguardo al soffitto che da anni implorava una mano di biacca. Parlava con lui, non avendo altri per casa. Gli raccontò ad alta voce quello che aveva sentito. Mozziconi di frasi, pezzi. Ecco, proprio come i pezzi di un mosaico che, se ben messi, avrebbero composto un disegno che per il momento restava misterioso. Perché, appunto, almeno quello era chiaro. Non si poteva discutere. Lì sotto c'era un mezzo mistero. Sarebbe stato pronto a giurarlo. C'erano in ballo, come le carte della briscola all'ultima mano, un uomo, un bambino, un nome. Un nome che né la donna né Don Carlo riuscivano a ricordare. Che però doveva essere importante, importantissimo, se aveva spinto fuori di casa in una giornata del genere, con quel caldo soffocante, una donna di quell'età, con il rischio di restarci secca. Sui 70 aveva calcolato il Biget. Così a stima, però, perché non era riuscito a vederla in viso. Il passo e il respiro non erano comunque quelli di una ventenne. E nemmeno la voce. A proposito, la voce. Non l'aveva riconosciuta. Non era riuscito ad appiccicare un viso a quella voce. Eppure, dopo 15 anni di sagrestia, le conosceva bene le fedelissime della parrocchia, quelle che non si perdevano nemmeno una funzione, matrimonio o funerale che fosse. Possibile, quindi, che quella donna non fosse nemmeno del paese. «Un bel mistero, eh?» chiese il Biget al soffitto muto. Quello voleva solo biacca. Il Biget, invece, cercava risposte. Che fosse arrivata da fuori? E se sì, da dove? E perché? Per un nome. Un pezzettino di intonaco si staccò, cadde sul pavimento della stanza. Un segno dal cielo. No, Biget, non per un nome, per quel nome. Per il quale non c'era stato sole canaglia che tenesse. Sì o no? Chiese il Biget al soffitto. Quello era tornato muto, ma il Biget aveva ancora qualcosina da dirgli. Piano piano i pensieri stavano tornando. Particolari, certo. «Ma chi, se non io?» chiese al soffitto. «Porco cane, era vero! Chi, se non lui, si sarebbe accorto che Don Carlo era passato a darle del tu dopo quella che s'era presentata?» Gli veniva in mente solo adesso. Il bigè si levò dal letto e il mistero, sino a pochi minuti prima, solo mezzo, adesso diventava intero. Che la chiave per svelarlo fosse quel nome, quello che né la vecchia né l'arciprete riuscivano a ricordare. Al sagrestano tremarono le mani per l'eccitazione. Non ci fu caldo né lezzo di sudore che lo disturbasse. Sentiva di avere per le mani un fatto grosso. E come raramente gli era capitato sino ad allora, quasi si dispiacque di non avere mai preso moglie per poter avere qualcuno con cui confidarsi. Ripensò alle poche e disprezzabili occasioni che gli erano capitate e si consolò pensando che una moglie non avrebbe fatto altro che riempirgli la casa di fiori, mentre non gli sarebbe stata di alcuna utilità in quella situazione. Cosa avrebbe potuto aggiungere, infatti, alle cose che lui aveva scoperto spiando quella specie di confessione? Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Andrea Vitali, La mamma del sole, Garzanti editore, 288 pagine, 18,50 €. La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato nel porto di Livorno un container proveniente dalla Cina pieno di salami preparati con carne di gatto, commissionato da un'azienda italiana nel ramo alimentare. I finanzieri hanno scoperto che all'origine del tentativo fraudolento di mettere sul mercato italiano dei salumi adulterati vi sarebbe un incredibile equivoco linguistico e culturale. Sembra infatti che l'azienda italiana avrebbe richiesto al produttore cinese di confezionare dei salami di felino, con l'evidente intenzione di contraffare un notissimo salume IGP, ma al momento degli accordi l'interprete cinese avrebbe equivocato il nome della cittadina emiliana con la specie animale. Avete ascoltato la lettura di un brano dalla rubrica Lumpen di Andrea Benedetti dal foglio del 26 aprile.